Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi dedichiamo questa prima parte del nostro appuntamento alle ascoltatrici, alle donne, ma attenzione, parleremo di come le donne si vedono, o meglio, come vede le donne oggi una delle più famose e più acute osservatrici sociali e culturali del nostro tempo, cioè Lina Sotis, della quale Rizzoli pubblica Ragazze, una come tutte, sono 160 pagine, 8,20 €. Quindi una osservatrice particolare, abituata a cogliere i tic, i vizi, le passioni della società moderna, questa volta alle prese col tema che forse ha sempre intrigato di più Lina Sotis, cioè appunto quello delle donne, del loro atteggiamento nei confronti degli uomini, del sesso, dell'amore, della ricchezza, del matrimonio. E troviamo in questo libro una serie di ritratti e di situazioni che affiorano dalle frequentazioni, dalla descrizione di quella che una volta si chiamava la buona società milanese e non solo, e che oggi è preda anch'essa di grandi tentazioni di volgarità, omologazione e conformismo. Lo stile del libro è lieve, ma lo sguardo implacabile è sicuramente uno strumento utile, questo libro, per capire la società di oggi, forse più utile di tanti libri di sociologia. Ma facciamocelo spiegare dall'autrice. Buongiorno Lina Sotis. Buongiorno Salvatore Carrubba. Signora Sotis, questo libro mi pare che abbia avuto una storia un po' particolare. Sì, una vera bella storia che nasce nel 96, quando scrivo Una come tutte. Il libro non era male, secondo me è anche il meglio che ho scritto. E l'ha letto Valeria Magli, che è un'attrice molto di quelle, come possiamo dire, complicate, francesi, che fa i mimi, insomma non un'attrice normale, alla quale erano piaciute molto 5 ragazze e ha deciso di portarle a teatro. E così le ha portate a Bologna, e così le ha portate a Venezia, e così le ha portate a Parigi. Queste ragazze hanno avuto il loro successo. Allora Valeria ha deciso di portarle a Milano, al Piccolo Teatro, per festeggiare questa serata che si chiamava Soirée Sotis, anche il nome trovato da Valeria Magli, cioè io sono una miracolata a cui è caduta una stella sulla testa. La Bour ha deciso di rifare un altro libro con solo le 5 ragazze interpretate dalla Magli e poi altre 6 ragazze più un prologo sull'amore. Senta, quindi la prima idea, diciamo, risale al 1997. Allora, in 12 anni le ragazze d'Italia come sono cambiate? Totalmente. Perché prima le ragazze andavano dai 13, anche 12 e mezzo, fino ai 45, ma no, per carità, non dilatiamoci, diciamo 42-40. A questo punto, pressappoco, le do questa notizia sconfortante. Lei chiunque incontri, anche se col bastoncino, incontra tutte ragazze. Perché siamo ragazze dai 16 ai 93 anni. E questo è bello o è una presa in giro reciproca? No, questo è molto allegro. Ovvero una signora di 90 anni, benedetta dalla salute naturalmente, tira fuori la parte più bella di sé, ovvero quella ancora ragazza. Una signora di 60 anni si può permettere di portare dei capelli sciolti sulle spalle, cosa che prima la faceva subito definire come una che non andava. I tempi sono andati avanti, ci siamo modernizzate e a questo punto siamo tutte ragazze. Senta, ci sono due caratteristiche, due cambiamenti che mi hanno colpito nel suo libro. Il primo è una frase lapidaria: scompare il lusso e si scopre che era solo eccesso. Ma insomma, cosa ne sarà del lusso allora? Cosa ne sarà del lusso? lusso, ma ormai non va più di moda. Benissimo. Assolutamente. Mi era parso di capire. E poi c'è quest'altra questione che mi preoccupa, i moderni maschi ritrosi. Cosa vuol dire? Qual è in cosa si manifesta la ritrosia del maschio? No, non tutti, pare. Mi sembra di capire che lei ha superato i 50 anni ed è anche felicemente sposata. Da qualche mese, sì. Ecco, io che ho appena compiuto 65 anni e ho vissuto delle epoche felici in cui esistevano i corteggiatori, 60, 70, in cui gli uomini facevano di tutto per corteggiare le donne. Le famose avance. Adesso, siccome l'offerta supera la domanda e le donne non fanno che cercare un uomo che praticamente, come dire, prenderlo a laccio, al cappio, loro scappano e sono diventati ritrosi. Per cui non ci sono più le ragazze che dicono no, o ni, o ma prolificano i signori, i giovinotti, gli argentei, i ragazzi di tutte le età che dicono senti però, ma forse ti dirò, vediamo. Sempre però con il retropensiero antico di accalappiarli. Ma guardi, quella è una cosa insita nella donna. Se lei pensa che anche nell'impero romano si pensava che sposarsi era una cosa da fare assolutamente. Insomma, almeno una volta è come il morbillo, il matrimonio va fatto. Insomma, il lusso no, ma le nozze sono ancora di moda. Le nozze saranno sempre di moda, il lusso assolutamente no. E il lusso abbinato al matrimonio è la cosa peggiore che ci sia. Il matrimonio deve essere semplice, per pochi intimi e senza assolutamente niente intorno. Bene, bene, lo dirò alle mie figlie. Senta, le sue ragazze leggono? Le mie ragazze? Beh, c'è l'orecchiante che non legge niente, però sta sempre ad ascoltare quello che dicano gli altri, così lo può ripetere. C'è la moglie che è così fiera di essere moglie che non ha tempo di altro. Poi c'è anche quella che è laureata in passione, per cui non ha tempo di leggere, perché lei ripete sempre se stessa, ovvero il momento della conquista. E poi tante altre tipe e tipette, quella che legge non c'è. Beh, comunque speriamo che questo lo leggano. Ragazze di Lina Sotis, grazie. Grazie mille. Buona domenica. Arrivederci. Guarda che c'è. Io parto per Parigi. E che vai a fare a Parigi? Ho deciso di fare fortuna. E si può sapere qual è l'idea geniale che ci renderà ricchi e famosi? Creerò dei cappelli. È un'idea eccellente. Ma non serve andare a Parigi, puoi farlo qui, ti comprerò tutto ciò che ti serve. Non è facendo 3 cappelli per le tue amiche che riuscirò a fare fortuna. Non vorrei sul serio metterti a lavorare? Non ha senso. Tu che ne pensi? Penso che abbia ragione. Forse da voi in Inghilterra fate lavorare le donne, ma a noi resta ancora un poco di galanteria. Questa è una ragazza che certamente piacerà a Lina Sotis, una ragazza che fa carriera, è Coco Chanel, e questa era una scena del film Coco Avant Chanel, che nelle sale in questi giorni, il film di Anne Fontaine con Audrey Tautou. Il libro dal quale è tratto il film è in questi giorni in libreria, si intitola L'Irregolare, Coco prima di Chanel, di Edmond Charles Roux, 618 pagine, 13,50 euro, pubblicato da Rizzoli e tradotto da Linda Chittaro. Gabrielle Chanel era nata nel 1883 a Saumur, era figlia di una coppia di amanti, non erano sposati, era nata in un ospizio, sarebbe stata affidata per molti anni in un orfanotrofio. Insomma, ha avuto un'infanzia difficile, natali umili, e nulla lasciava presagire il grande successo, quello che avrebbe fatto di lei una delle più grandi stiliste del Novecento e sicuramente un'autentica icona. Tra l'altro era proprio di Chanel il tailleur che indossava Jacqueline Kennedy quando uccisero il marito. Aveva cominciato a cercare successo la Chanel come cantante in un caffè chantant di infimo ordine, dove si esibiva con una canzone che faceva Chi ca vu Coco dalle Trocadero, e da qui venne il soprannome col quale poi sarebbe diventata famosissima. Questo libro percorre la sua vita fino al 1945, quando inizia un periodo particolarmente buio per la Chanel, che fu accusata anche di collaborazionismo in quanto era stata amante, fidanzata di un ufficiale nazista. Un'altra biografia più breve, ma che affronta tutta la vita della Chanel, è quella di Elisabeth Weismann, una giornalista francese come la precedente, e si intitola il libro Coco Chanel, è pubblicato da Archinto, 142 pagine, 12 euro, tradotto da Enrico Badellino. Questo libro cerca di scavare nella psicologia della donna, che era animata, come dice l'autore, da un insaziabile desiderio di rivincita e di risarcimento, che spiega, al di là del genio che albergava in lei, il suo straordinario successo. Rivincita, continua l'autrice, sulle proprie origini, sulla famiglia, sulla giovinezza, volontà di superare sofferenze e umiliazioni. Un caso esemplare di resilienza, direbbero oggi gli psicanalisti, intendendo con questo termine che nella vita un inizio difficile o addirittura traumatizzante può non soltanto rendere forti, ma ispirare anche il desiderio di progredire, di darsi da fare. E infine di Henri Gidel, un altro libro dedicato a Coco Chanel, Coco Chanel, la biografia, è pubblicato da Lindau, 410 pagine, 24 euro, e tradotto da Lucilla Congiu. L'autore di questo libro è un biografo che descrive la vita avventurosa come un romanzo della grande stilista, dei suoi amori, compreso quello famoso con il duca di Westminster, un rapporto molto complesso, come dimostra un episodio che lo scrittore ricorda. Il duca, ancorché amante della Chanel, era volubile e infedele. Un giorno sale nella sua barca, dove appunto lo aspetta lo Chanel. In quella barca stessa ha portato precedentemente una sua amante. L'affronto, scrive, è enorme. Il duca cerca di rabbonire la grande stilista e le regala un costosissimo smeraldo, e la Chanel non fa altro che prenderlo e buttarlo nel mare. Parla anche questo libro dei suoi rapporti col bel mondo, con gli ambienti intellettuali dell'epoca, per esempio quello con Cocteau, di cui Gidel è stato pure biografo, uno scrittore che in pratica Coco Chanel finanziò con grande generosità. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si è aperto in questo weekend la Biennale di Venezia e quindi vi propongo queste righe che ci descrivono l'ambiente nel quale la città lagunare è immersa. A detta di molti, la Biennale comincia soltanto dopo il primo Bellini, l'aperitivo a base di prosecco e crema di pesca che sancisce l'arrivo in Veneto. Dopo aver lasciato il bagaglio in un umile albergo affollato di curatori dal budget modesto e di critici, la nuotata al Cipriani mi è stata offerta da un amico che può permettersi i prezzi esorbitanti delle sue camere, consumo l'aperitivo di rito insieme a un conoscente sull'ampia terrazza del bar di un albergo che si affaccia sul Canal Grande. Seduti ai tavoli all'aperto ci sono molti volti familiari degli ambienti artistici di New York, Los Angeles, Londra e Berlino. Lui è nella lista C, lei nella B, commenta il mio conoscente indicando varie persone tra la folla. Nick Serota è nella lista A, precisa. Un tempo alloggiavo a Palazzo Gritti, poi però mi sono chiesto dove andrà a stare François Pinault. E improvvisa un trattato sulla discrezione senza pari di Palazzo Bauer, un gioiellino del XVIII secolo da non confondere con il Bauer moderno, un albergo meno prestigioso, anche se pur sempre a 5 stelle. Con 34.000 lasciapassare emessi per gli ospiti importanti e per la stampa, la Biennale è il raduno di addetti e osservatori del mondo dell'arte più importante a livello mondiale. Gli incontri si svolgono pertanto con un misto di apertura idiosincratica e di esclusività assoluta. Questa bella descrizione sull'agitazione mondana e sull'eccitazione presenzialista, che sono una delle caratteristiche della Biennale, sono tratte dal libro di Sarah Thornton, che è una canadese di nascita ma inglese d'adozione, una studiosa, giornalista, esperta del mercato dell'arte, argomento sul quale scrive su alcune delle più prestigiose testate internazionali. Con Feltrinelli ha appena pubblicato Il giro del mondo dell'arte in 7 giorni, 224 pagine, 13,50 euro, tradotto da Roberta Scafi. In 7 giorni o in 7 quadri la Thornton ci fa vivere dal di dentro il mondo dell'arte contemporanea, un mondo complesso nel quale si ramificano interessi economici molto corposi, che la scrittrice scolpisce visitando appunto 7 ambienti: il mondo delle aste, quello accademico, le fiere, i premi, l'ambiente editoriale, gli studi artistici e infine proprio la Biennale. Come vedete, il libro riconosce un grande ruolo alla Biennale, anche se la Thornton scrive che in generale l'Italia si configura ancora come un paese piuttosto inospitale dal punto di vista dell'arte contemporanea. Ma per quale ragione l'arte contemporanea interessa tanto? Secondo la Thornton, per 4 ragioni. Innanzitutto perché è aumentato il livello medio dell'istruzione e quindi c'è più interesse per i beni culturali più complessi. In secondo luogo perché il pubblico legge meno, dice la Thornton, ma vede di più. La nostra cultura è soprattutto una cultura visiva che ci spinge quindi a interessarci di arte visiva e quindi naturalmente di arte contemporanea. In terzo luogo perché in epoca di globalizzazione scrive l'arte al vantaggio di varcare facilmente i confini, infine proprio per una ragione che potrebbe sembrare dovesse tenere lontana l'arte contemporanea dall'interesse della maggior parte della gente, cioè il fatto che l'arte è proprio così costosa. Scrive la Thornton, le quotazioni stratosferiche riportate a caratteri cubitali sui giornali contribuiscono a diffondere una concezione dell'arte come bene di lusso e come status symbol. E di questo mondo, attraverso questo libro, possiamo dunque conoscere gli ambienti, i protagonisti, i vizi e i riti che consentiranno anche a chi non è esperto di capire cosa gira dietro questo enorme circo Barnum che è l'arte contemporanea. Un libro che ci permette di accostarci a un aspetto particolare dell'arte contemporanea è Arte contemporanea, costo e investimento, una prospettiva europea di Karine Lisbon, che è una studiosa del rapporto tra economia e arte, e Bernard Zucker, storico dell'arte e gallerista. Il libro è pubblicato da Johan e Levi, 188 pagine, 19 euro, tradotto da Cristina Cavalli. Il tema dell'arte come investimento è un tema tradizionale, ma qui si affronta un rapporto diverso, cioè quello del rapporto tra impresa e arte contemporanea. Per rispondere alla domanda per quale ragione alcune imprese si interessino anche con investimenti milionari all'arte e all'arte contemporanea in particolare. I due autori considerano il caso europeo, più specificatamente francese, perché negli Stati Uniti il rapporto tra arte e impresa è ormai tradizionale, invece in Europa e soprattutto in Francia è un rapporto abbastanza atipico, secondo il libro, perché lì lo Stato interviene con maggiore larghezza e il mecenatismo per l'arte contemporanea, tranne alcune eccezioni anche famose e con alcune propaggini anche veneziane, come sapete, resta marginale e relativamente eccentrico. Pierluigi Sacco, nell'introduzione a questa edizione italiana, si chiede allora a cosa serva questo libro, che in qualche misura è datato perché è scritto prima della grande crisi e in secondo luogo è molto ambientato in Francia. E l'utilità del libro è proprio quello di far notare come, nonostante gli sbalzi economici, il tema dell'investimento in arte resta sempre molto attuale e come l'esperienza francese può essere molto interessante anche per l'Italia. Il libro infatti passa in rassegna alcune esperienze importanti di rapporto positivo, particolarmente positivi, tra aziende e arte contemporanea, e così si rivela uno strumento utile sia per gli appassionati che per gli studiosi che per i professionisti nel settore. Agli appassionati di arte classica invece ricordo la mostra sul Beato Angelico, che è in corso a Roma fino al 5 luglio in occasione del 550° anniversario della morte del grande pittore. In questa occasione vi segnalo il libro di Georges Didi Huberman, Beato Angelico, figure del dissimile, è pubblicato da Abscondita, 328 pagine, 33 euro, tradotto da Paolo Peroni. L'autore è un filosofo e storico dell'arte che presenta un'analisi interessante, a tratti affascinante, sull'opera del grande pittore, illustrata anche da molte immagini. Un'analisi che parte da un punto di vista insolito, e cioè quello di alcune macchie apparentemente inspiegabili che lo studioso identifica in alcuni degli affreschi del Beato Angelico nel convento di San Marco a Firenze. E questa indagine permette di costruire un'analisi molto più complessa e profonda dell'immagine tradizionale, apparentemente ingenua, del grande pittore rinascimentale. E dunque questa è un'occasione ottima per rileggere uno degli artisti più importanti nella formazione dell'identità occidentale. Ma sentiamo da Marco Carminati qualche consiglio sulla mostra in corso a Roma. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. Sì, in questo periodo c'è un'occasione importante per poter ammirare molti capolavori di Beato Angelico in una mostra aperta fino al 5 di luglio nei Musei Capitolini di Roma. Ora, noi siamo abituati naturalmente a immaginare Beato Angelico come un pittore prevalentemente fiorentino. Infatti, gran parte della sua attività venne espletata tra Fiesole e Firenze, dove ha lasciato dei capolavori straordinari, in particolare nei conventi domenicani di Firenze, e ricordo il convento di San Marco, dove, pensate, abitava Cosimo de' Medici. E quindi, quando Cosimo de' Medici decise di prendere quella residenza, fece chiamare l'Angelico per dipingere le stanze dei monaci. E oggi noi entriamo in questa specie di convento che è più ricco di un palazzo reale in quanto a pitture. Ma perché la mostra è a Roma? Beh, perché l'Angelico fece una carriera strepitosa, nonostante fosse una personalità di religioso molto coerente col messaggio della povertà cristiana, quindi era una persona molto umile, lavorava moltissimo, e a un certo punto questa sua capacità di rendere nella cultura rinascimentale l'elemento cristiano, la semplicità cristiana, l'essenza spirituale delle figure, e soprattutto delle figure sacre, ecco, lo porta a diventare un pittore molto importante anche presso la corte del Papa. Viene chiamato addirittura da due papi che lo fanno lavorare in Vaticano, in un angolo non molto frequentato dai turisti. Si trova una cappella meravigliosa, la cappella Nicolina, un gioiello di Beato Angelico. Ecco, a Roma l'Angelico è vissuto nell'ultima parte della vita, e quindi la mostra documenta questa importante presenza. Addirittura l'Angelico morirà a Roma ed è sepolto nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. La mostra che cosa ha di importante? Beh, intanto fa vedere molte opere che sono riunite da molte parti del mondo, quindi è un'occasione di poter vedere opere che provengono dalla Francia, dall'America, soprattutto dai musei italiani, in particolare da Firenze e da Cortona, dove è arrivata una bellissima Annunciazione. Ma la cosa interessante è vedere che questo artista lavorava su tutti i fronti, quindi si occupava di disegni, e qui abbiamo un bel nucleo di disegni di Beato Angelico, e poi aveva anche delle incombenze, diciamo così, liturgiche. Aveva l'incombenza, per esempio, di miniare i codici, i corali, per cantare le funzioni. Quindi abbiamo anche la presenza di questi aspetti meno vistosi e meno conosciuti dell'arte di Beato Angelico. Il confettino. Restiamo in questo ambito con due libri per far accostare anche i lettori più giovani all'arte, e sono pubblicati da Cartusia. Il primo è Gli eroi venuti dal mare, il mistero dei bronzi di Riace di Sabina Colloredo, con le illustrazioni Ale più Ale, che sono Alessandro Lecis e Alessandra Panzeri. Il secondo è L'aria della Gioconda, ovvero Il segreto della fusione, di Roberto Piumini, illustrato da Gianni De Conno. Entrambi costano 12,50 euro. Questi due libri ci fanno accostare appunto a queste due figure capitali, lo scultore che fece i bronzi di Riace, lo scultore misterioso, e Leonardo da Vinci, ed evocano entrambi aspetti misteriosi ed enigmatici che aumentano il fascino di queste tre opere, i bronzi di Riace da un lato e la Gioconda dall'altra. E con questo ringrazio Daniele Casagrandi in redazione, Filippo Oreggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Passo la linea a Respiro. A voi auguro buona domenica e appuntamento la settimana prossima.